In ogni cosa ringrazio Dio, anche quando non capisco. Il mio cuore sceglie di fidarsi di Lui, perché la sua fedeltà non viene mai meno. Sono grato.